Dímelo, Papu. Gracias a Dios, todo bien ahí. Aquí comenzando un paso tal, ya un poquito. A 10-4, si quisiera, pero fíjate, creo que voy a pegarme en que sí, 10-4 ahí, sí, señor. Estoy hablando un poquito de ese botón más. Bueno, ahí que yo no te digo la verdad, que no sé dónde están. Están viendo la lámpara, la parte de atrás. Una puya para atrás, sí, dos puyitas para la esquina. Allá abajo, está perfectamente para acá arriba. Nada, mi hermanito, pues un abrazo. Chévere. Arcolino. Cinco. Difficile ripararlo addirittura. se non troviamo la causa perché si è bruciato un certo integrato, non si può aggiustare, è un macello. È stato manomesso, io l'ho comprato nuovo quell'apparecchio, ma deve essere uno di quelli che hanno restituito al proprietario e lui me l'ha venduto a me senza controllarlo e né niente. Funziona, va bene sulle prime, quando l'ho preso l'altro giorno mi si è crepato. L'ho pagato un casotto di soldi perché ho omologato, è stato messo a mano perché se ne è accorto subito quell'amico mio. Come l'ha visto ha detto questo è stato manomesso l'apparecchio. C'è anche la scheda che non è, che è fuori sede addirittura. Quanto ce l'avevi? Quanti anni ce l'avevi? Un paio d'anni, un po' di più. Neanche un anno ce l'avevo, l'omologato nuovo che avevo preso era. Questo è un altro. E per garanzia non te l'ha dato questo qua, o era un privato? La spagna l'avevo preso, e garanzia non venne neanche, se glielo spedisci non te ne tornano più, ma solo d'altro. L'abbiamo pagato una vacca di dinà, pure accusa che era omologato, perché c'aveva i canali bloccati, la potenza bloccata, capito? Usciva con 4 watt, a me mi serviva l'omologato, e praticamente l'ho preso per quello, io non l'ho toccato assolutamente, era nuovo, c'è ancora sopra i coperchi il cielo, figurati. Questa qui è la prima via. Invece questo che stiamo usando cos'è? No, questo è il 5555 della Vittone. Cioè Giovanni lo vedete? Questo è forte, no? Ma quello che c'è con un bel po' di carico. Eia, quello lì è quello che avevo prima. Ma hai pensato a vedere quanto lo dà? Come? No, non l'ho provato. Non l'ho provato, fra quanti vatti là. Che ricordo, certi modelli addirittura, non so se ricordo male, una cinquantina o 60 watt mi pare che toglievano fuori. Ma modificati però, dovrebbe darne 30 NFM o 40 NFM ne dovrebbe dare, 30 in banda laterale e un 15 in AM. Senza toccarlo, dai. Se invece lo modifichi può arrivare parecchio più su, mi pare. E infatti se lo tiri sì, però è ammazzare i finali così, se lo tiri. Già ce l'avevo modificato io, me l'ho venduto, adesso mi ho comprato questo che è normale. Ah, già va bene, sono con 2 watt adesso. No, c'è bene, vabbè, sicuramente stiamo usando un microfono modificato. E sempre l'MB più 4 sto usando. Ma si può fare presto tutta la televisione queste cose qua. Si sente un bel, lo applica parecchio. Adesso l'ho messo a 2, dai. Lo stesso, si sente, amplifica troppo, cioè non troppo, molto, dai. Guarda, adesso è a 1. Ulla, si sente lo stesso. E ce l'ho vicino a me. Sento, cioè, quando schiacci la televisione, sento, non so se è la radio, boh. La televisione bassa bassa c'è qua, io non la sento neanche, si può dire, però lui se la tira dentro. È tantissimo, invece prova a abbassare il mic gain della radio. Mi tocca entrare nel menu. Ah, già è vero, di quelli digitali, non è come questi vecchi manuali. Questo è bello perché c'è un bel frequenzimetro, è di lusso veramente come apparecchio, molto bello. Sì, se no anche a me piace molto, mi è sempre piaciuto l'apparecchio, lo fanno un sacco di case, lo costruiscono l'apparecchio, penso che poi alla fine sia gli stessi componenti, cambia marca, ma sono gli stessi, dai. E infatti io c'ho l'originale, la Nittone, la fa è preciso al 6009 della CRT, oppure al 5005 della Intec. E costa anche poco questo qui, costa 163 euro l'avevo pagato, senza le spese. L'ho pagato in tutto 172. Non è tanto, hai comprato bene, ma qui in Italia l'hai preso, ah no, sì, in Italia l'hai preso questo. tutti signore e vanno benissimo questi. Questo è normale come l'ho comprata, chi non mi tocco mai io a Parigi. Quell'altro l'avevo preso a seconda mano, l'avevo preso ed era già tirato dal proprietario. Sì, e te l'hanno mandato già aperto di frequenza? Sì, sì, non te ne fanno pagare modifica, sono due tassi poi, è una carbolata, la potrei fare anche io la modifica. Praticamente non va in 27, è per il 28 MHz. Tu tocchi due tassi e ti appare la 27. Ah, pensavo che fosse una cosa da collegare al computer. Da parte loro, dai, te la privano di frequenza. Sì, nasce per i 10 metri, dai. E infatti tocchi due dati e ti mandi in 27 e non c'è problema. Poi c'è l'altra modifica che lo devi attaccare al computer e fai praticamente a sintonia continua tutta la frequenza. Invece di essere 40 i canali per banda sono 60. Quella cosa avevo letto. Poi mi mandi dove l'hai preso, se me lo puoi dire, dai. Se non lo puoi dire in frequenza me lo scrivi su qualche messaggio. E lo trovi su Google, 163 costa, adesso non me lo ricordo dove l'ho comprato, se trovo il foglio te lo dico, devo guardare nella scatola, perché l'avrò messo lì sicuramente. No, no, ottima cifra, cioè hai comprato bene davvero. Mi costa poco ed è di lusso, è come apparato e funziona veramente bene. Si può modificare il beat per esempio, si può modificare dal menu, poi cosa c'è? Ah, il macchinino si regola dal menu lo stesso, insomma è un bel apparato. Beh, mi lui caduto le scale, magari che devi sempre entrare nel menu, devi fare anche in fretta perché sennò poi si azzera così. No, no, ma lo sai cosa ti dico? Una volta solo lo tocchi il menu, lo regoli e lui va alla grande, non lo tocchi più il menu. Come Smither c'hai quello a pacchetta, così è. E allora, quello digitale, c'ha un frequenzimetro, un bel grande, ma sai quanto è bello. Come ti arriva questo segnale a te lì, il digitale? Leggimelo, prova un po', 1, 2, 3, così sono liscio, 9,20. Così invece, guarda, agganciato, 1, 2, 3, prova. Fondo scala. Ah, arriva addirittura a fondo scala. Tieni conto che io sono con 2 watt però guarda, aspetta che l'aumento io, guarda il segnale adesso e poi quando cambio, guarda adesso è cambiata la situazione, vedi un po'? Da 9.30 va quasi a 9.40 qua, però questo è analogico, non so se funziona bene. Ti dovrei magari attenuare il segnale, portarti non so a 5 e vedere quanto incrementi. Provo? E provo, là. Adesso rimettiti, come si dice, a manetta, cioè a minimo. Adesso è 2 watt, dai. No, tieni la portante un po' che ti abbasso il segnale. Quasi miracolosi, ci sono purtroppo 9 persone che hanno perso la vita a causa di allagamento. Adesso ti ho portato a 5, aumenta? Guarda un po', 1, 2, 3, 4. Da 5 vai a 9,15. Alla braccia. Sempre su questo smitter, quello, non so se è giusto. Però ti ho portato, ti ho attenuato a 5 di segnale, quando aumenti la potenza vai a 9,15. Ecco, già c'è la. Si vede l'incremento piombe. Perché quando da 9.30 a 9.35 si vede poco, invece quando ti abbasso il segnale vedo più lo spostamento della lancetta. Dai. E si vede di più l'incremento. Sì, no, ma esce bene, guarda. Una bella radio pulita, tranquilla, senza fronzoli. E se voglio metto il microfono normale, così te la faccio sentire al microfono normale. E anche io mi metto di nuovo quello da tavolo, dai, di tavola. Poi voglio provare un microfono normale com'è. E tanto c'è lo spezzone qua. Ehi capo, io adesso sono passato a quello da tavolo, dai, cambia molto. Non ti credere, ma aspetta un attimo che metto il microfono normale, così mi dici come esce. Hola. Qua, questo è il microfono normale. Ehi, assistente, dai, è un po' più barattolato lì. il mio invece, l'originale, diciamo, dell'apparecchio. Com'è? Una cagata? No, già va bene, anche questo è l'originale dell'apparato. È piccolino come microfono, peccato che non me lo posso mettere in macchina questo, perché è un barrasone. Io lo uso in macchina questo qua, penso che no, forse è un po' più alto di spessore. Quanto è di spessore? Lo sai cos'è? Come il Super Saren, come può essere un Galaxy Pluto, di quella grandezza rimane. E allora guarda questo, dai, io sto usando il Galaxy in macchina e... Sì, è pesante, l'ho messo sotto, come si chiama? Lato passeggero, mi l'ho messo lì sotto, ho fatto una prolunga per il microfono. Vabbè, ma non lo posso nascondere io, è quello, Perché sennò magari mi aprono la macchina solo per prendermi questo. Lo dovete smontare, ti fai tipo una plancia estraibile. Vorrebbe fatto così, ma ogni volta te lo devi portare appresso. Già mi viene male a camminare da dove la metto, dal parcheggio dove la metto, a casa, che mi fa male la gamba, capito? Vabbè, quindi meglio uno piccolino, dai, in macchina. Anche un 40 canali, magari. Ce l'ho uno piccolino della Intec e mi sto usando quello lì. Ed è omologato? Di quelli vecchi, di quei 34 canali vecchi che hanno quello spinotto del microfono strano, tipo stereo. Ho capito, quello che c'ha 4-5 punte, 6 punte, dai. Che tende a volte a attaccarsi, te ne esce fuori. Quello lì è. Quello io ho avuto l'Intec l'MC34S, non so se ti ricordi, guarda, quello io ho avuto in concessione quando era obbligatoria la concessione, ci voleva l'omologato. Anche adesso ci vuole l'omologato, che sia marcato CE, se no te lo sequestrano. Sì, lo so, però non ci vuole più la concessione, dai. È ancora così, sì. Sì signore. Perché ogni tanto le leggi cambiano qua. Io sto facendo con 4 watt, esattamente. E io con 2, là. Questo l'avevo diminuito di potenza per pilotare bene quella roba là. Infatti io non ne ho di quella roba e quindi lo uso così, non me ne sbatte nulla. Aspetta che riattacco le mie BP4 e questo mi tocca tenerlo in mano il microfono. Comunque c'è la differenza, una sorta dall'amplificato. Sono qua. Abbiamo fatto lo spezzone, no, perché il filo dell'MV4, l'originale è corto, no, se no non ci sarebbe arrivato da dove l'apparecchio. Allora abbiamo fatto lo spezzone e attacco tutti in chibi. No, va bene. Hai provato a metterci qualche cosa davanti nella capsula per filtrare un po' dai rumori esterni? No, dovrei mettersi qualche spugnetta, qualche cosa. Io qua io uso lo Shure, no, già lo sai. Ce l'ho, il filtrino non l'ho mai tolto, l'ho cambiato qualche volta, ma lo lascio sempre. Non lo so se magari togliendolo amplifica ancora di più, però meglio che non ci sentano diciamo le voci di casa, dai. Ho capito. Dovrei buscarmela, dove la compro un filtrino? Dipende com'è, in origine ce l'aveva. No, in origine non ne ha, l'MB4, non lo sai com'è. Mi ricordo più o meno, là, un affare rotondo, un po' conico che va a stringere così. Tipo il Turner, c'ho anche il Turner più 3, quello originale, quello grigio. Sì, no, va a vedere, una per curiosità, per provare se taglia un po' di amplificazione esterna, da lontano, ma da vicino non cambia niente, ti avvicini un po' di più magari. Taglierà sì, però dopo lo busco un filtrino come stai dicendo tu. Non so, perché anche quei dischetti che usano per pulire il viso, quella roba che è in cotone, oppure quegli stracci che usano in cucina, quelli gialli, fai dei cerchietti a misura e provi con uno o con due. Ho capito cosa vuoi dire tu. Non posso tanto qua c'è il cerchietto, glielo metto dentro, al limite così non si vede neanche. Sì, sì, io ce l'ho interni. Il tappo, il mio è quadrato il tappo, no? Va in rotazione, lo sgancio e poi a parte interna ci metti quello che vuoi. Cioè, c'è quella che è in lamiera, quindi non è in acciaio, però dietro ci metti l'antisoffio, dai. E infatti, devo buscarmi uno di quelli, o quello degli occhiali magari. No, quello mi sembra troppo compatto come maglia, non deve essere molto compatto, deve essere una maglia un po' larga. Ho capito, vai e buscalo però. No, quelli tracci gialli, quelli che si usavano un tempo, dai. Che se li tiri si sfilacciano pure, se li tiri forte quando sono vecchi. Quando sono nuovi invece sono un po' più stabili. Se ti insegni con un pennarello o qualcosa, te ne fai un paio e li provi. E così dovrei fare. Vedo un po', quando li faccio così li provo. Tanto c'è anche il cerchietto in metallo, quindi il segno glielo posso fare con quello. E poi c'è una guarnizione in gomma. Capito? Io no. Come si chiama? Ce l'aveva la mia 50, ce l'aveva l'MB più 4. Poi invece l'avevo dato questo e si usava asciure, dai. Io poi non ne avevo più, lo usavo solo in macchina e basta. Infatti. L'asciura ce l'avevo anch'io e l'ho dato a un amico. Le mani mi dovevo tagliare. Nel Galaxy, ma te va anche al Turner più 3, Turner più 2, MB più 4. Il più forte era l'asciura, non ve la nuda di va. Il più forte è il più chiaro, tra l'altro. Usciva benissimo di radio quello asciura che avevo io. Era verde e si alzava l'affare del microfono, la sala del microfono. Il modello forse precedente, non lo so, e questo ce l'ho 30 anni, forse di più, negli anni 80, dai. Questo è tutto nero, con la manipolina rossa, dai. È un po' ingombrante. Già lo so, come il mio è, solo che il mio era con la vernice originale, era verde, lo sciuro era verde, era quello lì, deve essere l'hanno verniciato, capito? Ed è nero per quello. No, questo l'ho preso nuovo io, no, è proprio originale, non è stato mai cambiato. Il mio era verde quello che avevo io, c'aveva la manopolina rossa del volume. No, questo nasce così. È quadrato, sia il gambo, diciamo, lo tiro di microfono, la colonnina, come lo chiamate, sia la capsula, esternamente è quadrata. E così era il mio, uguale. Solo allora vuol dire che avevano verniciato il mio di verde. Era verde il mio, mi ricordo. Ma il modello, non è che me lo devo, vabbè, a me non si legge più sotto il modello. E il suo era, è quello lì, perché c'aveva la mano con la rossa e si alzava la sala del microfono, è quello lì. No, questa diciamo, l'asta è fissa, non puoi regolare niente. No, la mia si alzava, era in due pezzi l'asta. E allora era qualche altro modello, dai, sempre della Shure, però... qualche modello, o prima o dopo, o precedente o antecedente. E magari sarà stato antecedente, a quello lì, perché quello che avevo io c'era l'asta che si poteva alzare, era sempre quadrata, come mi stai dicendo tu, però c'era un pezzo grosso e un pezzo più fine che entrava dentro, e lo potevi sollevare, il pezzo fino. No, non lo conosco, ti mando la foto, dai. Quello che avevo io era verde ed era come te lo sto descrivendo io, ma era una belva, non voleva solo che agli altri microfoni, tutti li picchiava forte. Questo non è che è fortissimo, però la radio è chiara, come dici tu. Sei chiara e poi gira, Ida. E Così era, solo che il mio si poteva alzare l'asta del microfono. Il piccolo sta giocando. Era un modello diverso, magari era prima di quel, di questo qui che hai tu. Ma qui li devi venire che sono sotto, beh, li ho messi perché c'erano dei, si stava un po' ossidando, se no rimane tutto grigio, c'è solo la marca. Quelle adesivi li ho messi io così attaccati a casaccio. Sì, ho capito, il mio non ne aveva lo stesso, era verde il mio, mi ricordo. Mamma, tuo bimbo e a tutti. Beh, ma il verde dov'è? In quella piastra sotto la base. Tutto verde era il mio, c'aveva il coso grigio solo della portante. No, non l'ho mai visto. Vabbè, su internet non l'hai mai visto se è originale o se è stato ritoccato. No, anche quelli che ho visto su internet erano verdi, quelli Schurer che ho visto io. C'aveva sempre la manopolina rossa per regolare il volume. E boh. Però erano tutti con la collassa che si poteva tirare su. Comunque non dà problemi allungandolo e accorciandolo per il cavi, no, non ha mai dato problemi. Negativo, era, ed era una bomba come microfono, forse c'era qualcuno che voleva entrare poco fa. Vedi un po' se c'è qualcuno sotto, fra. Una notte. Sento un po' di propagazione io, no, nient'altro. Qualcuno vuole entrare? No, negativo. Allora vuol dire che mi sono sbagliato, io ho lo squelch inserito, ma non intendi rubare Vittorio, ma chi no che non intende più nessuno, si può dire. Oh, sì, sento qualcuno che parla, ma è Santiago, neanche uno, zero. Propagazione però, addirittura un po' di eco sta usando anche. Io ho capito. No, questo è bello, c'ha l'eco, c'ha tutto, è un bel apparato. C'ha il bip che si può escludere, si può modificare, non hai visto che tipo il colto il mio, perché me l'ho fatto più corto. Io non senti, trova spagnola. Sì, no, esce bene. Non lo so, mi sta avendo un po', una tentazione. Costa poco pure, non è così molto. Si chiama Anitone 5 5 5 5 4 5 A. Ed è questo l'originale, da questo sono nati tutti i vari CRT e le altre marche, ce ne sono quelli che hanno dato in Russia a Kenwood, però sono tutti la stessa minestra, penso. Ho visto anche Maxi Log, però alla fine è sempre quello. Poi ci penso, ma tanto c'ho questo, ne ho un altro uguale in macchina. Non lo so, mi dipende come gira la testa. Infatti. Ah, io me l'ho preso perché quello là non lo potevo né aprire, né, non avevo canali, non avevo nulla, non potevo regolare la potenza, nulla, là, ma me l'ho ripreso questo qui. Mica è come è arrivato, vado a provare il 3009, no, e mi faceva quel difetto lì. L'abbiamo aperto con l'amico mio, quello che li sa aggiustare, ha trovato un sacco di difetti, è stato manomesso questo qui, non è nuovo come l'hai comprato tu, come tu l'hai preso per nuovo, però questo è stato manomesso. C'aveva anche un diodo che non era il suo sulla alimentazione lì, guardate dentro com'è, e non era il suo la scheda, centimetri di acqua ci sono, era fuori sede perché c'ha gli incassi per la sede, per fare la sede della scheda, no? E sulla parte destra è fuori sede lì. Poi gli ho trovato dove tu attacchi i fili dell'altoparlante, la presa, era le saldature fatte alla cosa di Segugio praticamente. Due piste messe male, mi ha fatto i due punti per ricollegare queste due piste qui. Era messo male veramente. Ma era di quelli, come si chiamano, rigenerati, che magari rientrano in azienda, che non funzionano, tipo i telefoni cellulari, dai. Li rigenerano e li vendono come nuovi, però dovrebbero dirlo che è nuovo, ricondizionato però. No, no, io l'ho pagato un sacco di soldi, l'ho preso per nuovo. L'ho preso, figurati che c'ha il cellophane sui coperchi, c'ha ancora il cellophane di quando l'ho comprato. Chi sono loro che la stanno aiutando? Io ce l'avevo poco, capito? Poco tempo e mi si è barrato. È stato messo a mano, quello lì, manco il venditore ne sa, perché sicuramente l'hanno toccato quell'apparecchio e l'hanno restituito perché era difettoso. Quello lì non ne sapeva praticamente e me l'ha mandato così, senza controllarlo. Quindi io penso, manco il venditore lo sa che è stato manomesso in quel modo. Però un minimo di garanzia dovete averla, però non so se poi quella garanzia vale anche in Italia. E magari, penso proprio di no, infatti me ne sono fregato, l'ho data a quell'amico mio per se riesce a aggiustarmelo. Se me lo aggiusta mi fa un grosso favore, perché almeno ho di nuovo l'omologato, lo lascio lì fermo. E boh, lo userò qualche volta. Buonasera sindaco, grazie. Invece con l'antenna ti stai trovando bene, sì. Ah, l'antenna è sempre un bijou. Vento, già ne ha fatto, l'hai collaudata. Sì, ha voglia. Quel vento ultimo che ha fatto era in orizzontale l'antenna di quanto si è piegata. Ma ecco, se gli innesti li rispetti le misure che ti dà la casa, arrivano diciamo fino in fondo, non dovrebbe avere problemi, dai. Io me li ho segnati, ho preso le misure col metro e mi ho segnato i tubi, no? Capito? E quindi ho rispettato le misure per forza. Ho seguito il consiglio di lasciare il filo di sopra un po' lento, con i 4 centimetri che mi hanno detto, in modo che quando lì si piega non gli fa nessun danno. Infatti, e poi almeno quei centimetri ce l'hai in più di battuta, di netto, una dentro l'altra, è sempre meglio, sempre meglio. E infatti, no, come antenna mi ha soddisfatto, sento la propagazione. Prima, se non superavo il Santiago 7, non sentivo nessuno, sempre QRM fisso Santiago 7 avevo. No, no, una bella, qui c'era tutto il caso dei radiali, prende meno disturbi anche. Come antenna è di lusso. L'altro giorno in banda laterale ho collegato Campobasso, il Molise, che è difficilissimo, eppure io ci sono arrivato. Io ne ho fatto parecchio lontani anche quest'anno, adesso vai, lo segnate nell'agenda. Addirittura c'è uno, Marco, delle Canarie, che gira gira, lo sentivo un giorno sì, un giorno no, ma una telefonata, è proprio il segnale stabile. Quando ho detto che la mia finestra, la mia antenna era sulla finestra, ho detto, aspetta, figurati se dovessi metterla sul tetto adesso. E scappa. Purtroppo. Quando c'è la propagazione, quando c'era quella propagazione corta, sono arrivato fino in Molise. Purtroppo vi lascio delle vicine. Ma una telefonata proprio. Questo qui modulava anche più su e mi ha detto di lusso veramente. Io ho detto cosa stavo usando e funziona alla grande il tutto. Sì, ho collegato anche la Thailandia, questo Carl, ho scritto qua sulla frequenza, 27560 era qua. Poi erano 704. Io era 625 quando ho collegato il Molise. Ho poi collegato il Canada, questo Rick 173, qualcosa del genere. New York 27505 la frequenza. E insomma, con due propagazioni già ribitighemmo. Ma quando arrivano forti qua vuol dire che sicuramente hanno segnaloni, a sentirli io. Avranno qualche lineare o io è che non ne ho qua e posso uscire solo con i vasi dell'apparato. No, io ero agganciato, ma anche loro che usavano potenze, non mi ricordo quando, comunque. Ma spesso quello del canale per esempio esce in direttiva, in orizzontale. Figura. magari era puntata verso qua, verso la Sardegna. Sì, beh, parlava con, non mi ricordo se era con l'Italia in generale, quindi bene o male la Sardegna si trova in mezzo, dai, dalle Canarie mi beccava in mezzo. Sì, infatti, è bello, la direttiva è bella. Sì. Poi, ripeto, una telefonata, ma per un paio di giorni, ormai eravamo abitué quasi, tutte le sere ci sentivamo, almeno per i saluti. Adesso poi c'è un paio di giorni, un paio di settimane che non lo sento, si chiama Marco, ed è italiano, italiano, però vive lì alle Canarie. Figuriamoci. Sento lì, c'è un amico tuo. Come una telefonata, però c'è un po' a scarica adesso, cosa stai combinando? E magari non avevo schiacciato bene la portante. Adesso bene. Sì, Ghiccio, bisognerebbe mettergli uno spessore in modo che quando tocchi arrivi già subito al dunque, per quando non schiacci bene. Invece questo è il contrario, questo quando tocchi aggancia subito. Perché? Perché una volta si erano rotte le lamelle interne. E le abbiamo ricostruite con del materiale elettrico, dai. Infatti, no, questo è tublasi, gaccia. Queste sono quelle molle lunghe a lamella che le blocchi con le viti. E quando tu schiacci le lamelle si abbassano e toccano, fanno con tipo le puntine platinate, tac tac, fai contatto così. E c'ho il turner così io, solo che non c'ha gli attacchi per questo, per il 23 canali, perché sono 23 canali di quelli vecchi quartati, e c'è l'attacco per quello sul turner, ma ci metto poco a modificarlo. Oh, peggio di me, sì. Però sento sempre scariche. Scariche sto uscendo. Ogni tanto sì, non premi bene, sì. Perché bisogna che scenda un bel per agganciare, bisogna che gli metta uno spessore qualcosa sul tasto della portante, in modo che come tocchi va subito in fondo, diciamo così, è forte il tasto, ecco perché molte volte non schiaccio bene. Sì, anche adesso un po', alla fine, all'inizio era tutto ok, alla fine ha fatto qualche piccola scarica di nuovo. Sì, questo fa due scatti, prima mi sembra la portante e poi aggancia il microfono, sono leggermente in ritardo l'uno con l'altro. Ho capito, magari vuole pulito l'interruttore qua anche per le scariche. Può darle, anche adesso lo sta facendo appena appena, probabile che sia sporco. Oh, scusa, ho consumato magari. No, consumato no, perché è nuovo il microfono. Siamo sulla... Io ce l'ho lo spray per contatti, va a brillo. Si ricorda un po' di chissà roba, Renzo. Più colpita, guarda. Sì, tipo a volte il clacson della macchina. Quando inizia a diventare vecchia, in certi punti vai a premere la difficoltà a suonare, che si sono consumati i contatti. Che è forte questo tasto, molte volte non premi bene e ti fa quel gioco lì. Sì, adesso è perfetto, nessuna sbavatura proprio. Beh, dai, io faccio un po' di pausa che è arrivata la signora, devo dire una cosa, ok? A dopo, dai. Vabbè Fra, ci sentiamo, saluti in casa, le plus. Papa, grazie, ricambiato anche a te, un abbraccio, ciao. Attenzione, canale 10, cambio. Nara. E meno male, e meno male. Ciao Natali. Ciao già. Ciao, vabbè, sono alle farmacie a comprarmi, a ordinarmi le medicine, che non mi arrivano subito, queste le portano da Cagliari. Ho capito. Sto bene. Sì, poco fa c'era Franco, guarda che scenario, non quello di Sorso, quello di Franco Binario. E stavamo parlando una mezz'oretta. È andato via la salita. Eh sì, è arrivata la 50 e è dovuto andare via. Ah, ho capito. Stasera non c'è nessuno. Ma negativo. Eh beh, è normale, ho attaccato in macchina, ho attaccato in macchina per manici. Mi pare che ricavo tutto. Ma c'ero io ieri in macchina e ho parlato con Giulio, qualcuno già c'era, ma da voi, ma poca gente là. Bene, sto uscendo con questo MP più 4 e mi stava facendo delle scariche poco fa. L'ho sentita una scarica, non so se dipende da te. E quando schiaccio male mi dovrei fargli un qualcosa per premere prima. Sarà sporco il PTT, Natali. E l'ho messo adesso lo spray. E a volte lo sai cos'è? Che con lo spray per contatti non fa quello che fa il CRC. Io una volta gliel'ho messo e continuava a farlo, l'ho messo appena il CRC e non l'ha più fatto. No, ma è quando premo male che mi fa quel difetto. Ci sono quei microfoni, c'è la static, quello che ho io, che c'è il pulsante un bel duro. Quando vai a volte il vito, a furia di tenerlo premuto, siccome il tasto è quadrato, ti senta 30 all'udito e ti fa male, capito? Quindi molli un po', per istinto lo fai, no? Infatti. Oh, yeah. Come mi ascolti? Ah, io ti ascolto bene. Cava. Qua adesso sulla Budibudi bisogna stare attenti che cominciano a mettersi i vigili urbani. L'altro giorno stavo andando piano, questa macchina mi sorpassa, cazzo, l'ha pigliato in pieno. E oramai ho imparato, quando arrivo al punto strategico rallento, da voi, cavo curri. E beh, poi fra, e beh. Sì, Girella? Sto facendo delle commissioni, fra. Devo andare in farmacia da un amico, devo passare per vedere una cosa e poi sono libero. Libero cittadino, ciao anche a Natalino. Siamo qua. Tutto a posto, sì, Gianni. Insomma, sì, diciamo di sì. Meglio di prima. Beh, l'importante è quello, migliorare. Cava. Ma quella persona è sempre lì. Sì, così, mia madre non è molto contenta, però. No, vabbè. Com'è, ha finito? Addirittura? Sì. Ahia. Così, dai. Ne parliamo magari al telefono, dai. Non so cosa da parlare qua in radio, dai. Cava. Comunque, per adesso mancanza d'altro. Infatti. Ci sono i carabinieri, scusa. Via, occhio. Bene, Natalino. Sto chiudendo un microfono. Quello di poco fa, lo stai pulendo? No, l'ho già pulito, quello è chiuso. Adesso stavo controllando quello normale. Il microfono originale? Sì. E cosa c'ha quello? Beh, passati i carabinieri? Sì, sono passati. C'è il posto di blocco, mi hanno guardato e guarda, hanno visto l'antenna. Ma ti stai avvicinando a Sassari? No, io sono alla veloce, sono, capito, sono vicino. Ah, ok, no, perché adesso il segnale è ottimo, Qua sono esattamente dove c'è il Barsana, lì. È una buona zona per me quella lì, arrivi forte, sei quasi 9.30. Cava. Adesso un po' sceso. Tu mi ascolti bene? Vabbè, non lo vedi il segnale tu? Sì, io lo vedo, se parla. Adesso c'è un po' di USB, sei sceso un po', poi sei risalito, vedi un po' 1, 2, 3? Anche tu sei forte come segnale qua. No, deve essere una zona favorevole per me, ci deve essere qualche varco, oppure rimbalza del palato di fronte e fa da ripetitore, deve essere. Cava. No, arrivi bene anche tu, per essere in macchina è molto stabile, la radio è buona. Quindi adesso mi fermo 5 minuti da un amico e poi vado in farmacia a prendermi le pastiglie e poi rientro a casa, sempre andando, gioco da una cosa all'altra, fra. Ehi, bisogna tenersi attivi. E io già sono abbastanza attivo, sono sempre bello arzillo. L'importante è avere cose da fare, come si dice, progetti, tenersi impegnati con la mente, dai. Io sono entrato un'oretta fa da lavoro. Dai, fai le tue cosucce e poi ci sentiamo. No, io sono qua, non ti preoccupare. Natalino che sta sempre smontando. Sto smontando. Perché stavo facendo una cosa qua. Adesso vediamo un po'. Prova. Adesso bene, sto uscendo. Sì, sempre molto amplificata, cioè ti porti sempre dietro quella roba di casa. Poi il vento va bene, lo sai. Di propagazione sento. Guarda, adesso meglio va. Amplificazione. Ma un po' meglio, però, ripeto, quando fai bianco si sente sempre. Vabbè, cosa ti volevo dire? Gli ho messo un filtrino. Sì, però, ripeto, male ce ne vogliono due. A te ti sento sempre bene. Non ti dà fastidio, però è più forte la voce, diciamo. Però amplifica sempre. Vabbè, adesso aspetta, lo metto a uno e vediamo un po'. Guarda, adesso è a uno. Aumenta appena. Dai, così è aumentato. Una via di mezzo non c'è. Guarda così, a uno e là, uno e mezzo. No, si sente sempre la televisione. Prova appena, un pelino diminuire. Guarda così. Fai bianco, metti la portante. Beh, così va meglio, parla. Guarda, 1, 2, 3. Così è da salotto proprio, non ti porti appresso. Se non ti serve potenza, va bene così. Infatti, adesso lo lascio così. Però devo riaprire il microfono normale. Era giocato da anch'io, il filtrino. Così è perfetto, poi si sente leggermente la televisione, ma proprio impercettibile, però quando parli tappi tutto. Invece senza quel filtro lì e aumentando l'amplificazione, proprio ti porti, te la senti dietro proprio appresso. Ho capito, tra un attimo che riapro quel microfonino piccolo e vediamo un po', perché non molla la portante. Vedi un po'. Gianni, ci sei ancora? Gianni deve essere entrato in farmacia. No, ha detto che andava dopo, prima si fermava forse da un amico, ha detto, e poi andava in farmacia. E cappa. Se si piglia un cacciavite come si deve qua. No, mi gabubini. Fai. Che è avanti? Avanti Franco, cambio. Ho sentito una piccola portante di fondo. L'ho mandato avanti ma non risponde. Fra, me lo dà il controllo da qua dalla Teloce. Sì, 9:25. KK, grazie. Va bene. K, non bene, benissimo. Tanto io ho trovato un'antenna di un tipo di Cagliari che stava vendendo, però non spediva. 30 euro, una X30 può essere, non mi ricordo. L'antenna? Quella B-banda lì, U e V. Sì, quella piccola, sì, quella più piccola. Stavano 30 euro, diceva, in buone condizioni. Peccato che non ho trovato nessuno da portarla su, perché scenderci a prenderla non vale la pena, ci rimetti. Fra, qua c'è un amico che mi ha detto di partire dalla X200 come minimo, perché quella lì non c'è via nuda. Non mi ricordo se era X30 o X300, non mi ricordo, va. Però sembrava una buona antenna, avevo letto anche le recensioni, erano buone. Qua mi sta, io non la conosco come antenna perché non l'ho mai usata, qua mi stava dicendo così ti sto dicendo. È un amico che le tratta, capito? Sì, non so, Natalino ci sei, vedete se Natalino l'ha mai usata. No, manca appena, ribonti fondo scala giù, ma arrivo. Raga di cantare, amici due. Cosa c'hai tu, la X? A 30. L'importante è che sia l'originale della Diamond, a non prendere altre imitazioni che sembrano uguali esteticamente, ma non servono. Quindi 30 euro ci poteva prendere, no, Natalì? Mia voglia, l'ho pagata 60, la mia. E chi sta svegliando a quest'ora? Hai ragione, è proprio così. tu sì. Mo la rovino però, mo l'alvino. Che cosa hai bevuto? Catamara. Catamara, corretta però. Oh yeah. Va bene, tutto ok. E chi si è a posto? Dai, però sembra un ubriacone, dai. Un ubriacone fragico. No, lo fai bene, lo fai bene. No, hai si rimesi, no, dai. Io mi sono regolare, mevo, bevendo, ma no, mi sono anche regolare. A pezzi no. Io ho praticamente una spia, no? Con la spia sarebbe mal di testa. Come ciò, boh, mi fermo! E bevo magari adesso dopo un'aranciata, una gazzosa, un... acqua. No, era nel senso che lo imiti bene, lo sai imitare bene, diciamo, era solo quello, eh. Sì, bene, adesso sto bevendo acqua. Allora, poco fa stavo dando una mano a un amico, no? Stavo spostando dei mobili da una casa all'altra, là vicino, mi proprio a piedi. Proprio vicino, vicino. E questo, quest'attimo, boh, forse cadi un calo di zuccheri. Come si dice, non ce la facevo, mi sono fatto dare una tomata bassa, mi ha dato subito un bitter, poi sono bevuto, poi mi ha dato ginseng, dopo un po' una merendina, e la verità mi sono ripreso. Lucrezia! Ricapo, meglio così, e beh, può capitare, un caso di zuccheri, può. C'è anche Natalino, avanti Natalino. E aspetta, sto facendo cosa qua, là, ti prendete voi, vi ascolto. Lucrezia, Giannini. E allora, restiamo a un quarto. Io sono in popò, sto andando a fare delle commissioni e sono in macchina. Il microfono dove lo tieni, appeso allo specchietto? Io? No, io c'ho il portaoggetti, lo metto dentro. Ho capito. E poi lo tengo in mano, così sto parlando col microfono sulla gamba, mi senti? Bene, ma è amplificato, è un microfono amplificato, sì. No, però è normale, è un microfono normale, ma è fatto da me. No, caspita, per essere così lontano, ottimo. Cappa, e così non mi vedono se parlo, capito? Infatti pensavo fosse un amplificato, invece, caspita, complimenti, dai. Cava, no, vabbè, l'apparecchio che va bene, che c'ha l'eco, capito? Vai, però quello che amplifica è il microfono, dai. Sì. Questo qua, l'altro, l'originale, non funzionava, e ho lasciato il coperchio dell'originale, ho lasciato, e dentro l'ho fatto io, come volevo io, capo se l'ha messa da me, e tutto quanto, lampada là. E cos'è, ceramica? No, è una capsula che usavo nell'apparecchio che era modificato, quello che avevo modificato il 48, che era una capsula che mettevano negli amplifidei nei modificati, dai. E vedo che va bene. Oh, va benissimo, caspita. Cava, meglio così, dai. L'altra mi è partita, le ho messo CRC, tutto quanto, le ho cambiato PTT, capsula, tutto l'interno è di un altro microfono, e l'esterno invece è l'originale. Franco? Sì, che è, avanti. Guarda il microfono che mi hai detto che sembrava di plastica poco fa. Ah, quello l'originale? Sì, meglio va. Sì, adesso non ha quell'effetto di plasticone. Anda bene mela. E te l'ha salvato? Sì, adesso stavo andando a schiacciare l'MB+4, solo che va più vicio, attaccato. Cosa hai cambiato? Gli ho tolto un filtrino che aveva in più e io ne ho lasciato uno a questo. E con uno ne hai accontentato due, dai. Infatti, aspetta che stacco e metto l'MB+4. No, va bene, anche forte la radio. Adesso c'ho l'MB+4, guarda un po'. Questo è un altro pianeta, però andrà bene anche l'altro, dai. Sì, se me lo devo mettere in macchina almeno c'ho il microfono come si deve, capi? Va bene, questa è perfetta proprio. Adesso sì, che gli ho messo quel filtrino per farla più bassa, là. Ma no, adesso proprio una bomba, è forte, chiara e in più non ti porti appresso niente. Ehi, ma è a uno, mi? Guarda, qui va benissimo così, per me, E l'importante è che faccia il suo dovere adesso, le maybe più 4 è perfetto, va. Come diceva un amico, già scherneggiami. Ma non sta andando più nessuno? Io ci sono, ma sono in un fosso, non so se mi ascolti, sono in mezzo a dei palazzi, dai. Sto andando a fare quella commissione in farmacia. Ma io ti ascolto, non più come prima, però ti ascolto ancora, penso che anche tu mi ascolti. Sì, ti ascolto, ma sono in mezzo a un palazzo praticamente chiuso, da una parte, dall'altra, al centro, tutto chiuso. No, arrivi ancora, tranquillo. Dai, datemi 5 minuti. Anzi, dai, faccio QRT che devo andare anche a comprare roba. Ci sentiamo dopo magari da casa, dai. Ciao Gianni. Ciao già. Luca, c'è ancora? Sì, sono qua. Ma niente, sì, no? No. Ascolta, ho già mangiato poco fa, ho detto che stavo sentendo male. No, sono... Sono stato a Wolfly. Stavo mandando dei messaggi, ma sono qua, Come vanno i turminati? Posso dire che non respiro. Cioè, già mi ha fastidio, perché non sentivo gli odori, adesso sentivo puzza di ascelle. Era meglio prima, è intasato. Esatto, tipo sui tram, mamma mia, bene da muri finetta, da muri. Luca, anche Luca c'è bene, sempre bella radio, forte. Sperati che io sono come c'è il più lungo, è buon coma, che c'è male. No, è già facendo bene anche lui. Se sta usando un mic normale, l'ha sentito. A distanza pure, lo sentivo benissimo. Se io mi allontano il microfono originale che ho, non sentendo più nulla. Devo controllare anch'io se all'interno ci sono quei filtrini da togliere. Ho fatto un affare oggi, un super affare ho fatto, cazzo. Dopo sapere che affare ho fatto. Beh, ormai mi hai messo la curiosità. Allora, ho dato una TV 32 pollici normalissima da mettere in cucina, no? Sai, in cucina, in cambio di una Hitachi 55 pollici smart, nuova. E funziona senza decoder? Allora, di ultima generazione, allora. È pesantuccio, però è grande, carta poi vedi bene i programmi. È bella. Molto bella. Aspetta un attimo. Allora, l'unico problema che ha è che manca la telecomando. Non mi sono messo in altro, vabbè. Comunque. No, è perfetta, c'ha Netflix, c'ha tutto. Perfetta, va. Aspetta. Dell'audio, bassi, alti, vedi, bello, proprio bello. E però non ho capito cos'è che gli manca il telecomando? Copri batteria. Vabbè, ma il telecomando se vuoi te lo cambi, ti prendi di quelli universali. Se c'è lo compro originale. Ma quelli universali, scusa, con 10, 15 euro te ne esci. Sì, vabbè, ma perché non preferisco prendere l'originale, sì. Lo pago 30 euro, però originale, ma vabbè, un foglio va bene, è nuovo. Adesso non ne ho voglia, allora com'era domani me lo smonto, me lo pulisco bene. Ho già saltato tutto quanto. Però c'è internet, c'è tutto bello, proprio bello, nuovo. Come è questo lo scambio così? Te l'ho detto perché il cavo era troppo grande questo, non lo voleva la moglie, c'è il marito, c'è questo tipo maladatto, ma se mi dai, me ne dà uno piccolo tiro questo qua, io pronti, e me lo sono messo sopra il mobile, bello, con questo vedo bene anche le partite, è proprio bello. E non ti guardi la finale dell'Inter? Esatto. Se non ti guardo male sei interista, sì. Già lo sai già. Cos'è la tre, te parlate in due, cos'hai detto? E lo sai che ti pensi un po' male con quel televisore adesso? No, è bello Natalì, bello. Poi questo qua, questo non l'ho visto qua neanche. Perché un po' mi entrava con le code, con questo qua, niente. Ma è fermato meglio. Capito. Perfetto, è bello, proprio bello. Tutto pulito, è nuovo. Questa cazzo avrà 2 anni, guarda, io ho messo 200. canale 200, ok. Che ne so io? E mi dice qua, beh, test EVC, EVC main 10. È di ultima generazione. Sì, se vedi quell'immagine lì vuol dire che è di ultima generazione, credo, perché io ho quelli HD, anche se li vedo ancora i canali, però non vedo quella pagina lì, perché io ho ancora il decoder T1, invece quello umano è già il T2 di seconda generazione. Esatto, T2 questo qua. Sì, sì, sì, ma io ancora finché funzionano li lascio, poi o metto un decoder o me li cambierò, peccato perché si vedono bene anche i miei. Sì, va bene, va bene. Diciamo che vabbè, la camera mia dovrei un po' fare delle modifiche, comunque, quando lo posso anche appendere, però è pesantuccio appeso, ci vorrebbero il tassello chimico per appenderlo.